Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un peu. Bene, ce l'abbiamo fatta a scavallare la parte precipua delle feste. E siamo nuovamente qui al microfono in diretta, sì, perché ho preso in giro i giorni passati e ho registrato. Qualcuno se n'è accorto, molti no, continuano a scrivere su Facebook, fare domande. Io da casa rispondevo, ma stavo spaparanzato di fronte alla mia scrivania e non stavo davanti al microfono. Sì, un piccolo inganno, ho voluto togliervi la gioia di pensare, di assistere alla diretta e quindi non me la sono sentita denunciare l'artificio, ma ero registrato. Normalmente è chiaro che esiste una porzione dell'anno in cui anche le persone che vanno alla radio hanno desiderio, voglia o obbligo di astenersi dalla diretta. Oggi ci sono veramente, realmente, concretamente e riprendiamo il colloquio con voi. Beh, ne ho viste di cose in questi giorni. Prima tra tutte la fantastica battaglia che ha lasciato due morti, centinaia di feriti sulle nostre piazze, fatta con fuochi artificiali, bombe, scoppiettoni, revolverate. Complimenti, ancora una volta gli italiani hanno dimostrato un loro grande desiderio di tensione fisica, ma potrebbero andarlo a esprimere in varie parti del mondo dove in realtà di botti ce ne sono parecchi, anche molto più forti, anche molto più cruenti. Ma andiamo al motivo della trasmissione di oggi, la nostra rentrée in diretta. Io ho visto molto popolata la città di Roma, notoriamente città d'arte, oltre che di tante altre cose, di turisti che giravano come zombie nel supermercato alla ricerca di luoghi da frequentare per accrescere il loro bagaglio culturale. Quindi evidentemente deduco che una delle cifre distintive di questo passaggio di fine d'anno è stato visitare i luoghi d'arte. Siete veramente interessati all'arte? Quanto l'arte vi corrobora? Quanto l'arte fa parte della vostra esistenza? Quanto è una sete inestinguibile? Quanto un alimento del vostro animo? Quanto in realtà è semplicemente una maniera per investire bene i vostri soldi? Investi in opere d'arte, forse oggi è un bene rifugio che potrebbe funzionare, ma vatte la pesca, il mercato è condizionato da alcune fattispecie temporanee, da alcune circostanze che noi non possiamo definire. Beh, oggi parliamo d'arte. Parliamo d'arte, parliamo di artisti, parliamo di mercato dell'arte, parliamo di percezione dell'arte, parliamo di alimento artistico. 800240024, oggi ci sono realmente, concretamente, in diretta. Non è tradizionalmente un periodo da tutto esaurito nelle città d'arte. Dei 18 milioni di italiani in viaggio, secondo uno studio di Trademark Italia, il 9% ha scelto una meta culturale. A Firenze molte cose da vedere: il nuovo teatro dell'opera, una mostra con ottime recensioni, a Palazzo Strozzi, le chiese e i palazzi. Un giro a Santa Croce, a Basilica e poi torniamo a casa. Quest'anno vacanze culturali? Sì, quest'anno sì. Una scelta, una novità? Sì. Gli altri anni dove passava le feste? A casa, in famiglia. Ma una visita al più grande museo italiano, la Galleria degli Uffizi, oggi arricchita di 9 sale, è sempre un'esperienza straordinaria. Eh sì, fortissima, un'esperienza straordinaria. Mi viene in mente Alberto Sordi e la moglie sbombardona, mandate le figlie a fare le vacanze intelligenti, chiese questa clip, ma Fabrizio Intonti me la negò perché l'abbiamo spesso usata e abusata ultimamente. La moglie esposta alla Biennale viene presa per un'opera d'arte, quindi abbiamo capito che è molto relativo il concetto di valutazione dell'arte. Di questa mattina vorremmo parlare. Ne parliamo con un artista. Oggi ho avuto il raro privilegio di avere un artista vero, in carne ed ossa. Pablo Ciauren, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a te. Pablo Ciauren ha appena scritto un libro che è una controstoria dell'arte, edito da Gallucci, dove fa una sua rassegna individuale, personale, vista proprio da un artista, di tutta l'espressione artistica, dalle prime pitture rupestri fino ai contemporanei, a quelli che oggi voi considerate i capisaldi, i pilastri dell'espressione artistica, passando naturalmente per tutti quegli artisti ormai inflazionati dalle guide multilingue delle città dell'arte che portano queste interminabili catene umane di giapponesi o di pensionati della bassa Sassonia in giro, così a vedere cose di cui poco sanno, con la fretta di andarsi a mangiare la finta matriciana o gli spaghetti scotti. Pablo Ciauren, essere artista, diciamo poc'anzi che oggi c'è una tendenza innata nel definirsi artisti, molti artisti addirittura lo scrivono nella loro carta d'identità: io sono un artista. tu sei artista anche dal punto di vista anagrafico, l'hai scritto proprio sulla carta d'identità. Per forza, che altro potevo scrivere? Bancario? Magari. Ecco, essere artista è un termine, non vorrei portarti a esprimerti sui tuoi colleghi, ma è un termine un po' inflazionato, e mi sembra che il senso di questo tuo excursus è una visione personale, a volte disincantata, a volte anche critica, su questa sorta di definizione di arte a tutto tondo rispetto a ogni espressione che ogni epoca definisce artistica. Tu dici che le pitture rupestri in realtà avevano una loro funzione reale, concreta, erano arte, ma erano anche una sorta di taccuino delle cose da fare, o del ricordarsi degli animali che bisognava prendere per mangiarsi. Beh, ma voglio dire, la prerogativa dell'essere umano è quella di essere creativo, come dire, l'ape fa il suo alveare, sempre quello, sempre uguale, gli viene comunicato dal DNA, poi ha dei piccoli spostamenti a seconda delle, come dire, dei luoghi, delle cose, insomma, può evolversi ma molto lentamente. Prerogativa dell'essere umano è quello di inventare cose continuamente e trasmettere immediatamente al proprio vicino l'invenzione fatta affinché lui la recepisca. Questa è la creatività. Se l'uomo non fosse stato oggi, creativo... Oggi, se uno si definisce un creativo, ci viene un immediato raggrizzamento gonadico. Perché? Perché appunto si è staccata, si è completamente allontanata dalla creatività il senso di utilità. Quindi oggi essere creativo è appunto entrare o in un'azienda pubblicitaria o fare le proprie performance a bigolo sciolto. Quindi l'artista deve avere una sua funzione reale, concreta, non soltanto di creare dei punti di riferimento, delle sue visioni del mondo, dei simboli e via dicendo. Tu sei convinto di questo? Beh, diciamo che è stato uno dei temi poi del Novecento, in particolare se l'arte dovesse avere un'utilizzazione o meno, spesso ha prevalso l'altro punto di vista. Penso che comunque deve avere una sua funzione. Poi naturalmente c'è anche la creatività fatta per il divertimento personale, ma questa è un'altra cosa. 800240024, qual è il vostro concetto dell'opera d'arte? Quando anche voi vi incolonnate, andate con la famiglia, andate in gruppi organizzati, o andate semplicemente per un reale, sano desiderio di crescita culturale, a assistere all'esposizione di un'opera d'arte, a seguire una mostra, a seguire un artista performativo che svolge dell'arte concettuale, ecco, qual è la vostra sensazione? Veramente entrate in una dimensione di trasfigurazione della realtà, o semplicemente lo fate perché in fondo è importante farlo, perché bisogna avere questa sorta di bagaglio culturale, perché anche voi sentite la necessità di fare qualcosa di intelligente nella vostra vita? 800240024. La passione per l'arte contemporanea in particolare non conosce crisi. La famosa casa d'aste Sotheby's mette a segno un'altra vendita record. A New York un ritratto di Andy Warhol, il padre della pop art, è stato battuto per 32 milioni e mezzo di dollari. Si tratta di una delle ultime opere dell'artista americano prima della sua morte. Nella stessa serata un facoltoso collezionista si è portato a casa anche un quadro di Mark Rothko. Il dipinto, conosciuto come opera senza titolo, è stato battuto all'asta per 31,4 milioni di dollari. Venduto anche un Pollock per 8 milioni e 700 mila dollari, un Basquiat e un Bryce Marden. Quest'ultimo è stato acquistato per 9,6 milioni di dollari, nonostante una valutazione superiore ai 10 Pablo milioni. Echauren, ricordo autore della Controstoria dell'arte, edizione Gallucci, che è un suo percorso, un suo excursus attraverso l'arte, dall'origine all'arte contemporanea, in particolare in questo servizio di un'asta milionaria di opere di Andy Warhol. Si tocca un punto che tu personalizzi molto nel tuo libro, il valore aggiunto, il valore artificiale all'opera d'arte. Tu mi dicevi prima, un'opera di Rothko o di Pollock vale infinitamente più di un primitivo senese o di un artista, diciamo, quotatissimo però del passato. Cosa dà valore all'arte? Quando improvvisamente l'arte è diventata qualcosa di altissimo valore monetario? Beh, intanto queste differenze verranno probabilmente col tempo, come, riparate dalla storia. Cioè, cosa la storia farà deprezzare anche queste ipervalutazioni? Quantomeno li porterà al livello del Tiepolo, non li può considerare 100 volte il Tiepolo. No, ma anche, stranamente, tu hai detto primitivo senese, io sono un grande ammiratore di Sano di Pietro, Ho visto vendere un sano di Pietro a 50.000 euro, ma un vero sano di Pietro, non una cosa. Vabbè, comunque. Quindi fondi oro. Beh, comunque nella storia dell'arte sappiamo che Caravaggio è stato dimenticato per 3 secoli, considerato un minore, poi rivalutato in maniera tanto da essere il più grande artista del mondo al momento. Quindi l'arte, in realtà, ma, un'opera d'arte non ha un suo valore assoluto, è come la borsa, è come, esatto, lo spread. È come la borsa. E sappiamo come nasce la borsa? Qualcuno si è mai chiesto che cos'è la borsa? La borsa nasce in Olanda per gestire le vendite dei bulbi di tulipano. Da un signore, si chiamava Van Borsen, qualcosa del genere, perché i bulbi di tulipano, i tulipani avevano un mercato pazzesco, un bulbo particolare di una varietà di tulipano poteva costare 2-3 palazzi, poi questa bolla in una sessione di borsa esplose, persero tutto, insomma da lì comunque nasce l'idea della borsa, di gestire i traffici. Per quanto riguarda l'arte, l'arte oggi è gestita, appunto prima si parlava di record d'aste, da un mondo che è adepto di quello che io chiamo il corpus Christis, il corpus Sotheby's, cioè solo ciò che viene passato e filtrato da una casa d'aste determina il valore, il prezzo determina il valore, ma come questo prezzo viene determinato, questo è un altro paio di maniche. Non è sempre tutto così chiaro, ci sono anche gruppi di affari che decidono, perché d'altra parte se un oggetto costa zero e può arrivare a tanti milioni si capisce che può essere un contenitore, ecco, questo però rinnega il principio che l'opera d'arte abbia un suo valore assoluto, trasfigurante, di porta di passaggio fra il mondo concreto e il mondo dell'interpretazione dell'artista. Tutte bubole, queste ormai non contano più nulla, Sono gruppi di potere che determinano qual è l'artista, qual è la tendenza. Ecco, tu definisci un momento storico in cui c'è stato questo passaggio? Beh, o se no è sempre la nostra idea romantica che l'opera d'arte sia momento della trasfigurazione. Beh, finché serviva, quindi era la Bibbia dei poveri. Per la Chiesa, la pittura in una chiesa era poter raccontare, visto che erano tutti analfabeti. Anche il cinema dei poveri. Sì, certo. Non a caso le allucinazioni mistiche. Ma non c'era il cinema. Era tutto legato alla storia sacra. No, ma non c'era il cinema. Loro dicono la Bibbia dei poveri perché quelli non sapevano leggere. Quindi gli facevano vedere quello che non avrebbero potuto leggere. Ma comunque, quando perde questa funzione di celebrare i grandi personaggi, eccetera, eccetera, ma diventa più una cosa da appartamento, quindi da borghesi, e allora lì comincia. Sentiamo Salvatore. Salvatore, buongiorno, primo ascoltatore. 800 24 00 24, ricordo il numero. Ci piacerebbe anche sentire qualche artista, qualcuno che si definisce tale, qualcuno che il mondo definisce tale, come la pensa riguardo a quello? Si rende conto in questo momento che sta lavorando in un mercato, sta lavorando in qualcosa che in realtà non ha un suo valore concreto? Non c'è una committenza che vuole un'opera d'arte perché è significativo di qualcosa. Forse le committenze valgono per i manifesti, valgono per i brand pubblicitari, ma non più per le opere d'arte. Eccomi Salvatore. Scusi, Francesco. Sì, buongiorno. No, Salvatore, era Salvatore. Sì, buongiorno a voi. Eccoci. Allora, io volevo dire questo, perché stamattina ho ascoltato una trasmissione che mi suscita interesse in quanto io sono figlio di un gallerista. Mio padre da 30 anni è in questo mercato e quindi quello che è stato detto chiaramente io lo vivo in prima persona. Io ho la grossa fortuna di avere a casa oltre 100 quadri, perché ovviamente mi sono stati donati da mio padre. E ogni mattina quando mi alzo guardo queste opere d'arte e mi suscitano una emozione nuova. Quindi per me inizia una giornata attraverso un'opera d'arte, attraverso una scultura. Mi cita qualche artista che arreda casa sua? Ma guardi, io c'ho un po' di tutto, diciamo che c'ho Annigoni, c'ho Carlo Levi, c'ho diciamo Tulli, c'ho Alinari, c'ho una serie di autori che fanno parte poi diciamo di quello che è il bagaglio di mio padre, delle scelte che lui ha fatto durante questi 30 anni di attività. Quindi poi me ne ha donato una serie di opere che, ripeto, per me è una grossa fortuna. Io non potrei stare a casa senza un'opera d'arte. Quindi questo lei dice le suscita comunque un'emozione quotidiana avere quest'opera a casa, quindi in qualche maniera vorrebbe dice il lavoro di suo padre non è soltanto un lavoro di mero mercante, ma è un dispensatore di piacevoli momenti di chi acquista le opere d'arte. Questo in sintesi vorrebbe dire. certamente questo, anche se mio padre ovviamente ha fatto il mercante, ma ha fatto il mercante poi con un suo modo di procedere, perché quello che appunto sta dicendo il suo ospite poi è reale, cioè l'opera d'arte ha un suo valore in quanto è il mercante d'arte che attribuisce a quest'opera questo valore, in quanto se l'artista non viene ospitato in una galleria, non fa parte di una collezione, non fa parte di un mercato delle case d'aste, l'artista non riuscirà mai ad emergere. Quindi purtroppo è così. In questo particolare anche lei si, diciamo, professionalmente si manifesta nel campo artistico o fa tutto un altro lavoro? No, io faccio il commercialista, faccio tutta un'altra cosa. Però ripeto, ecco, queste opere comunque fanno parte della mia vita ormai. Arredano il suo studio quando le portano, diciamo, le denunce dei redditi. Grazie. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Io sono un curatore di eventi d'arte, nella mia vita ho curato 3 padiglioni in Biennale di Venezia, l'ultimo quella che è finita qualche tempo fa per Costa Rica. Mi rilasciavo sottolineando a quello che il maestro sta dicendo, che durante la speculazione borsistica... Mostro, prego, non maestro. Vuole essere definito mostro, Pablo Echauren. Vabbè, mostro nel senso letterario della parola, che si mostrava, quindi quel senso lì. Bene, comunque, bene. Nella speculazione borsistica olandese perse molti soldi anche un suo ex collega, maestro, che era Rembrandt, ne perse tantissimi. Certo. Quindi, sempre, spessissimo, gli artisti hanno guardato sempre al lato economico. Ricordiamo Michelangelo col Pontodoni. Beh, gli artisti devono anche mangiare, non è... Ma mangiavano bene, Bernini, devono farlo gratis. No, mi scusi, questo io lo dico perché difendo anche la categoria di chi poi magari vive dei prodotti del suo intelletto. L'artista era il suo mestiere, doveva essere certo deve essere pagato. No, ma infatti è poco ma sicuro. Dicevo, Bernini quando morì lasciò 160 milioni di euro, non è che li ha trovati sotto i San Pietrini. Se l'è ben guadagnati, immagino. Perfettamente, quindi attualmente io non ho mai conosciuto un artista che pone al secondo posto il lato economico, al primo posto c'è sempre il lato economico. Quindi, no, al primo posto non direi, ha una sua importanza. Ma certo, se è al primo posto forse lì comincia il problema. Però lo è, perché io curando 3 padiglioni in Biennale di Venezia, la Biennale è come le prostitute, a tutti fa schifo, però poi di fatto tutti vogliono esserci e tutti vogliono andarci. Grazie. E fanno carte false per farlo, mi creda, perché io sono a contatto. Io sono un outsider, non sono Sgarbi, non sono un curatore di quelli che guadagna vari milioni di euro, però mi creda, curando 3 padiglioni... Anche lei lo farà perché è il suo mestiere, non credo che lo certo, fa per beneficenza. Io lo faccio a fondo di lucro, assolutamente sì, non è che lo faccio per... Sì, ma sfatiamo questo fatto che fare le cose per guadagnare sia qualcosa di riprovevole. Nessuno di noi fa il missionario. Anch'io parlo alla radio perché questo è il mio lavoro e voglio uno stipendio in cambio. Cioè, però l'opera d'arte, signori, è un qualcosa che va al di là. Tant'è che noi siamo dei depositari, non siamo dei proprietari. Un'opera d'arte vive mediamente 500 anni se trattata male. Se la facciamo bene diventa quasi un pezzo immortale. Spesso anticipatamente... Le scatolette di Manzoni si stanno corrodendo per la materia acida che contengono all'interno, mi dicono. C'è un problema di restauro. Sì, è dovuto anche al lato... Comunque io ho elaborato un postulato per dare un valore concreto all'opera d'arte. È su base curriculare, devono esserci 5 passaggi. Perché l'opera d'arte può essere compiuta da qualsiasi persona, può essere vista all'interno di un contesto in qualsiasi momento. Cioè chiunque può fare un'opera d'arte? Sì, qualsiasi persona può fare un'opera d'arte, non è che è un bene esclusivo di qualcuno. Si lavora 4 ore al giorno per 4 anni e si è un artista. Poi bisogna vedere... Adesso lo dice in maniera provocatoria, lei pensa? Sì, guardiamo uno dei più grandi curatori italiani, Bonami, era un artista, architetto, quindi ha cambiato vita, ha cambiato livello. Si possono fare entrambe le cose. Robert Stork, che curò la Biennale di Venezia nel 2007, che è anche professore a Yale, a New York, dove c'è la più importante scuola curatoriale a livello mondiale. Quindi lei, Francesco, dice, siete voi ad attribuire la patente d'artista a un artista? Diverse operazioni. Al quinto punto di questo postulato c'è: quando c'è un museo che compra un'opera d'arte, quando c'è un'importante casa d'arte che compra d'arte, un'importante collezione, curatore e galleristi che investono soldi, lì la base curriculare ha compiuto la sua causa e l'effetto è che l'opera d'arte vale 2-3 milioni di euro. A questo punto potremmo istituire un albo degli artisti, a questo punto, mentre stiamo smontando tutti gli albi professionali, vogliamo istituire un albo con dei passaggi curriculari. Caro maestro, voglio dire, mi sembra... non voglio polemizzare, dico la mia così. No, però di pure la tua, Pablo, perché abbiamo sentito una serie di persone che lavorano nel mercato dell'arte, l'abbiamo chiamati noi a raccolta, a sentire Francesco, a sentire anche l'ascoltatore figlio del mercante d'arte, in fondo loro sono il meccanismo che determina l'essenza e la realtà dell'artista. Ma sì, voglio dire, quello che dicevamo, intanto il gallerista dipende quale gallerista, perché sì, non appunto, generalizziamo, qui chi sempre crea il mercato sono pochissime persone sulla faccia della terra, quindi è una convenzione, non è semplicemente aprire una galleria e vendere, e bisogna vedere come si vende, che come si è sostenuti nel vendere, eccetera eccetera. Ma questa cosa sta diventando talmente forte che ha sopravanzato poi la possibilità di vedere, cioè la quantità di denaro diventa l'unica vera visibilità. Se tu riesci attraverso fortuna, rapporti, eccetera, a vendere per milioni di euro, vai in prima pagina sui giornali. Questo ti rende, diciamo, famoso. Che molto puoi opere ignorare d'arte, anche quello che, diciamo, che la cornice prevale sul contenuto. Sì, molte delle opere d'arte che si acquistano rimangono nei cavò perché sono considerate dei beni di investimento, come uno comprasse lingotti d'oro o i diamanti. Ma comunque, diciamo, o girano, perché ormai girano come trottole da una mostra all'altra, vedi sempre gli stessi pezzi perché sono quelli che ormai hanno, come dire, che possono aver accumulato più valore in denaro. Ma questa cosa veramente, diciamo, sposta completamente la percezione, perché se ero a cena tempo fa da un amico e avevo a destra e a sinistra due gentili signorine, una criticessa d'arte, l'altra gallerista, e si parlavano delle quotazioni spuntate da un loro protégé che stavano aumentando, hai visto quanto ha venduto? E allora mi sono voltato e ho detto, ma scusate, di che state parlando? Mi hanno detto, d'arte. Dico, a me mi pare che state parlando di soldi, non d'arte. Quindi è come giocare in borsa, è come lavorare su delle azioni, è come fare delle operazioni commerciali. E la cosa tragica, sì, è questa, che oggi senti parlare d'arte ma attraverso le quotazioni spuntate, ma insomma secondo me basta stabilire delle regole lessicali, non chiamiamola certo, arte, chiamiamola in un'altra maniera. Arturo, Francesco, Giovanni. Alessandro. Buongiorno Nicolini, buongiorno. Sì, Nicolini, poverino, si è occupato d'arte per tanto tempo all'Estate Romana, adesso un po' si occupa di altre cose, ma non sta davanti a questo microfono, per no, mia fortuna. Mi perdoni. No, si figuri. Allora, io volevo salutare il mostro o la creatura o comunque sì, il soggetto. E volevo, spero, non uscire troppo fuori dal seminato. Io insegno storia dell'immagine più che storia dell'arte. Cos'è storia delle immagini? Fondamentalmente è il nome tecnico con la quale nelle istituzioni scolastiche fortunatamente sta prendendo quello che un tempo veniva chiamata storia dell'arte, cioè non si insegna più solo i cosiddetti tre canoni, no? Architettura, scultura e pittura, ma si è allargata ovviamente alle nuove discipline, cioè il cinema e l'arte sequenziale, che è il nome sì, ufficiale che si dovrebbe dare al fumetto. Anche i fumetti, certo. Certo, video interazione, quindi lo studio azzurro, quelli che vengono chiamati spropriamente videogiochi, e soprattutto l'animazione, che viene definita l'arte delle arti visive in movimento. Quindi io sono il proprietario e gestore di un'agenzia, si chiama Otto Agency, che si occupa di tutto ciò che è visivo, però principalmente nello spazio di allenamento, dello spazio visivo in generale, e io volevo rompere la lancia a favore del mostro che parlava prima delle pitture rupestri, no? E proprio ieri sera, rispondendo a Chuck Magazine, che si domandava nel numero di novembre 2011 se il videogioco o il FAI, cioè il film d'animazione interattivo, fosse una forma d'arte oppure no, e ho risposto citando varie fonti, da Steve Russell. Sì, cioè adesso guardi, senza fare citazioni, la domanda mi sembra molto chiara. Io adesso mi interrompo un attimo, dare la linea alle informazioni della borsa, proprio perché siamo in tema. Riprendiamo fra un istante con Pablo Ciara. La domanda è questa: il signore che insegna arti visive, vorremmo però fare una differenziazione, questa è una lettura molto personale, ciò che è semplicemente visivo e ciò che è visionario. L'essere la visione è qualcosa che trasfigura la realtà, l'artista è un grande trasfiguratore di realtà, chi fa arti visive è un riproduttore di realtà, il videogioco è una bellissima e divertente avventura, ha una sua poetica senz'altro, ma troppe cose le definiamo come arte. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il maestro Oliviero Rinaldi, a cura della Fondazione Angelucci, ha donato a Roma questa statua che rappresenta l'accoglienza di fronte alla stazione Termini, da sempre territorio di accoglienza. Con orgoglio assistiamo all'arrivo di questa significativa opera in questa piazza, conosciuta da tutti i romani come grande punto d'incontro della città, nonché l'inizio di tanti viaggi e di ritorni a casa. Abbiamo cercato di sistemare con decoro urbano questa statua incredibilmente bella perché accogliente. Fu una fantastica pomeriggio, passai per caso davanti alla stazione Terni, senti, questo era il collega, l'enorme, illustre Umberto Broccoli, che nel suo ruolo istituzionale lanciava la fantastica statua a Papa Wojtyła davanti alla stazione Termini, che tante soddisfazioni ci dette, l'hanno chiamata in tutte maniere, piccionaia, orinatoio, cioè con rispetto parlando per l'illustre persona che dovrebbe rappresentare, ma ne rappresenta molto poco, una statua che è presentata come opera d'arte, c'era la banda, il sindaco, fu coperta da un lenzuolo bianco, c'erano quattro vergini che, per modo di dire, non so, erano quattro persone, con dei nastri scoprirono questa statua. Dopo poche ore c'erano già i polacchi sotto, incazzatissimi, dicevano: questo non è il nostro papa, non c'entra niente. A un certo punto, non sapendo che fare, hanno detto: adesso la cambiamo, abbiamo scherzato, era soltanto un abbozzo, adesso dobbiamo rivederla. E ancora lì la vedo tutte le mattine, ormai quel capoccione sembra un po' il Duce, non c'entra niente, no, col... sembra Tabacci. Tabacci, è vero, è il ritratto di Tabacci. Evidentemente avrà una sua funzione, come vedi, nel futuro, quando Tabacci salirà sulla gloria d'altare, avrà appunto la sua statua già pronta davanti alla stazione Termini. Ecco, Pablo Echauri, ricordo, autore della Controstoria dell'arte edita da Gallucci, un suo punto di vista attraverso tutte le correnti dell'arte, dalla pittura rupestre contemporanea. Ecco, cosa ne pensi te di queste attribuzioni istituzionali di opera d'arte? Intanto non c'è nessuna politica, no? Quindi e non ci sono soldi, non ci sono fondi, quindi tutto è affidato alle donazioni. Uno la mattina si sveglia, dona un'opera alla città, se trova l'assessore giusto che gliela accetta, l'opera sta lì. Roma purtroppo è fatta così. Quindi dona un'opera d'arte a dignità di esposizione. Assolutamente sì. Se incontra l'assessore giusto, amico, o comunque la filiera che lo porta all'assessorato, ecco lì che la stessa cosa come le chiese, perché parlo delle chiese storiche, delle chiese stupende, no? Contenitori di tutta l'arte occidentale come la conosciamo. Queste chiese oggi, se il parroco è più o meno amico di un qualche sedicente artista, metterà accanto ai Caravaggio, ai Perugino, eccetera eccetera, metterà le opere del suo conoscente o del parente. E spesso sono delle ciofeghe inguardabili. Ovviamente. Sì, infatti ci sono questa sorta di anacronismi. Entra in una chiesa di Roma, a un certo punto vedi dei crocifissi impalati, le cose che non possono vedere, che non si capisce. Non esiste un piano regolatore. Non esiste un piano né alla città né all'interno delle meraviglie delle chiese. Ecco, questo poi riporta la domanda di prima. Non è un termine inflazionato, usurato dall'abuso che ne è stato fatto, quello di arte? Bisognerebbe riclassificare ciò che realmente è arte. Assolutamente sì. Cos'è l'arte? L'arte, io rimango, per me l'arte è una felice, immediata e oggettivamente trasferibile emozione di una persona che vede la realtà in maniera diversa, trasfigurata, oltre la nostra comune banalissima visione, e riesce a trasferirti questo suo colpo d'occhio. Quella è opera d'arte. Quando non ti emoziona, quando l'emozione è attribuita dal fatto che ne parlano tanti giornali, ne parla la televisione, allora a questo punto anche un impiccato di Cattelan diventa un'opera d'arte, allora è un altro discorso. Beh, è un'altra cosa. Chi è il detentore di questa emozione? Questo è il problema. Beh, non lo sappiamo. Non esiste l'emozionometro. Quindi è il tempo non esiste l'emozionometro. Quindi è il tempo, tu dici il tempo. Tempo che definirà, ciò che sopravvive al tempo sarà filtrerà. Opera d'arte. Però è vero anche che cosa viene tramandato ai tempi è quello che viene stabilito in alto loco da quelli che oggi si arrogano il diritto di stabilire cosa è arte e cosa non è arte. Sì, perché abbiamo artisti morti in povertà o... Io ricordo un fatto, ricordo che adesso non mi ricordo l'anno, non saprei identificare, fu invitato alla Biennale di Venezia Capucci, che io ritengo essere forse uno dei più grandi scultori, voglio dire, di stoffa che l'Italia, che è il mondo, uno dei più grandi scultori del dopoguerra in assoluto. Comunque fa abiti, ma sono abiti sculture, sono abiti spesso inindossabili. Bene, mi ricordo che all'epoca un artista molto famoso uscì indignato, e lo vidi intervistato al telegiornale, che disse: è insopportabile che si invitino alla Biennale dei non artisti. Faceva confusione, probabilmente lui voleva dire dei non pittori, dei non scultori, non lo so. Perché uno stilista è un non artista? È un artista a tutto tondo. L'arte è una forma di espressione. Ma allora anche il performer, anche... tutti sono artisti. Poi bisogna vedere quali sono più o meno degni di passare alla, come dire, al vaglio del grande Macina Caffè. Quindi diciamo che si è allargato lo spettro delle tecniche espressive, sono tantissime oggi. Sì, ma però rimane assoluto oggi il termine di opera d'arte. In un museo antico, etrusco, romano, egiziano, eccetera, eccetera, e tante cose che non nascevano come opere d'arte le guardiamo come opere d'arte. Che è sempre frutto di un saccheggio, di una saccheggio, eccetera, delocazione rispetto alla funzione di quell'oggetto. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. Fatto fare soldi al telefono oggi. Perché? No, non si preoccupi, chiamiamo noi tanto, non paga lei. Sì, comunque è un piacere veramente, perché vi seguo continuamente, ma l'argomento arte a me mi tocca il cuore e mi commuove. Allora, io ho sentito un signore che diceva che si fa 4 anni la scuola, che poi si diventa pittori. Assolutamente, io contesto questa... Ma lei è una pittrice... Ma non sono pittrice, sono una che al secondo piano del museo di Villa Borghese a Roma ha pianto così tanto che sono venute le hostess lì. Signora, beh, le serve uno psicanalista, allora scusi. Sì, no, si chiama sindrome di Stendhal. Mi commuove. È una patologia, Mi lascio andare, perché è così bello. Si lascia andare di fronte a esseri umani, non di fronte a oggetti inanimati. No, davanti agli occhi di chi interpreta. L'invidia di chi interpreta, la rabbia di chi interpreta. E qual era l'opera che ha determinato la sua estasi? Ma tante, ora non glielo so dire. Indica una, come? Non si ricorda nemmeno il motivo della sua estasi? No, sono una povera sciacquetta io. Non sciacquetta. Ho insegnato per poco. Anche una sciacquetta può dare nome alle sue estasi. No, ma me lo dico da me, così evito e lei mi prenda in giro. Mai mi sarebbe passato per la mente. Comunque, no, lei mi ha descritto una sensazione, scusi, no. La coppia degli etruschi bellissima, quel marito e moglie di stessi lì che sorridono contenti. È una cosa totalmente come reale. Il cielo di Antonello da Messina, che quell'azzurro che ti colpisce al cuore. E a me più quel manto che il volto, devo dire. Va bene. Comunque, io ho dei quadri in casa, dei quadri importanti, non solo uno. Sono una povera maestra. Ma non si pianga sempre addosso, se no veramente, un po' di ottimismo. Sì, e quindi ho un macchiaiolo. Questo macchiaiolo piccolino raffigura due bambine che si danno per mano fra due siepi di macchia mediterranea, in fondo la sabbia e il mare. Ecco, io tutte le mattine me le guardo, perché quello è il percorso che faccio io. Allora, per me non è interpretazione, ma è una vera emozione. Lei si emoziona davanti all'opera d'arte, lei è l'esempio più calzante del potere di trasmissione dell'artista di una sua emozione. Lei guarda le bambinelle che si dà la mano sulla spiaggia, è la stessa strada che fa lei, è un circolo chiuso, esce dal quadro, entra nella spiaggia, riesce dalla spiaggia, entra nel quadro. Yolanda, buongiorno. Eccomi. Complimenti per la trasmissione. Andiamo al punto. Perché la seguo tutti i giorni, ma oggi specialmente ho ritenuto opportuno di telefonarle. Volevo dirle, io disegno più che altro, mi piace disegnare con i policromi, volevo sapere come mai tanta gente riesce ad esporre alle gallerie e molte altre che hanno come lei, stanno del talento, a no, non come me, io sono spicciola. Ci sono gente veramente nel mio paese che dipinge da tanti anni e non riesce ad esporre in qualche galleria perché nessuno li conosce o perché loro non hanno quella possibilità di conoscere determinate persone. Al giorno d'oggi penso che si esponga solo con questo metodo. Ma tanti bello. Sanno fare il pane in casa, non tutti aprono panetterie, però questo è nelle cose. Però io desideravo che molte di queste persone che se intendono di arte o fanno gallerie o quindi anche gallerie, lei sono i protégé che vorrebbe vedere nei paesini, perché c'è gente veramente, ci sono anche delle cose orribili, brava. Delle velleità mostruose, delle persone che sì, fanno bene a coltivare il loro hobby, ma non è detto che questo debba già aumentare le bancarelle dei mercatini d'arte che vediamo la domenica in giro per le città italiane. Grazie Pablo. rispetto a queste telefonate, un tuo giudizio? No, diciamo, perché questo è un po' il sentire comune rispetto all'arte. Beh, ci sono appunto due punti di vista. L'eccesso di chi vede continuamente artisti non riconosciuti, che quindi sono, come dire, umiliati da questo mercato, e altri. Ogni categoria ha i suoi altri che invece vedono il mercato come unico Moloch a cui prostrarsi. Noi dobbiamo trovare una via di mezzo, quindi non è tutto mostrabile, non è mostrabile solo ciò che spunta quotazioni da urlo. Penso che comunque il rapporto va istituito anche, diciamo, con una sorta di pubblico, cioè credo che le arti figurative siano forse l'unica forma espressiva umana che non risente del parere del pubblico. Ma viene a pensare, il musicista fa il primo album, può essere naturalmente prodotto, sponsorizzato, spinto dalla casa editrice, ma se non vende se ne torna a casa. Il secondo fa fatica, e vale per il cinema, anche i romanzi per certi versi. Nulla nega che le cose di nicchia poi abbiano un loro valore. Qui, se tu non esprimi un giudizio confacente e analogo a quello che hanno espresso i critici che determinano come dire, la qualità dell'opera, sei un retrogrado. Mi viene a pensare, quest'ultimo signore che ha parlato, se conosce così tanti artisti incompresi, lei acquisterebbe quadri di queste persone, farebbe un investimento in acquistare quadri di queste persone? Probabilmente no, perché anche a lei serve comunque un riconoscimento ufficiale. Non sono quotati, quindi non li voglio, anche se me lo regala. Gente compra poi a Porta, diciamo a Piazza Navona. Sì, ma le case degli italiani sono piene di schifezze. Certo, cose compra a 10, 20, 30, 50 Io euro. Io ho il privilegio di essermi fatto una casa, adesso non ho nulla appeso alle pareti, sono felice. S'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Aiuto! Oi, oi, oi, ha avuto paura? E come? E di che? Come di che? Oh. Di questo quadro? E già. Ma è un Picasso. Cos'è questo? C'est une imitation de Picasso. Questo qui? Beh, oui. Imitation de Picasso. Oui. Picasso. Picasso. Questo qui? Beh, naturalmente. Picasso. E chi l'ha fatto? Io? Ma no. Moi. Bravo. La scienza va premiata. Ora tutti a me. Una sedia e un tovagliolo. Venga qui. Lei vede qua? Sì, sì. Vede bene? Sì, sì, sì, sì, sì. Allora fermo, Fisso, Fisso qui, Ecco. Troppo divertente, cos'è? Totò Colori sputa in un occhio all'artista. Era una sorta di dissacrazione, ma ripresa in giro anche delle attribuzioni della patente di artista. Un Duchampiano, sì, su Picasso è tanto detto. Nel tuo libro dici che in realtà ha plagiato una certa forma di arte africana che veniva importata in quei tempi in grande quantità, e ha rifatto esattamente le stesse cose. Però indubbiamente un grosso merito l'ha avuto, almeno lui. Ma certamente no, ma io cerco semplicemente di sfatare e comunque di raccontare da un altro punto di vista, assolutamente senza mai denigrare l'artista. Io penso che gli artisti hanno sempre diritto di fare quello che fanno, e fanno quello che sanno e possono fare. E in certi casi, non è il caso ovviamente di Picasso, che anzi fu denigrato agli inizi, quello che discuto è il gioco che si opera su di loro, quindi il trasformarli da espressione del tempo in geni. Certo, del chi si fa, diciamo, portavoce, un'espressione destruttura per primo, pone per primo degli interrogativi nuovi, ha un grosso merito. Poi tutti gli ismi che seguono sono, esatto, terrificanti. Quello che è venuto dopo è stato Duchamp, è stato un grande, e tutti i Duchampiani oggi fanno veramente fatica e in qualche modo inquinano la scena. Tipo arte povera, queste. E insomma, comunque diventa. Diciamo che se il Novecento è stato segnato da Picasso come il grande innovatore della pittura, dell'espressione, l'altro grande genio è Duchamp. Oggi non esistono più i picassiani, esistono solo i Duchampiani, che spesso non sono Duchampiani, ma sono Duchampisti. Fausto, buongiorno. Buongiorno, io volevo semplicemente riferire di un episodio che secondo me appare emblematico. Diciamo della tendenza di un'egemonia del marketing rispetto alle organizzazioni degli eventi artistici, e ne rappresenta in un certo senso una forma un po' risibile, un po' degradata. Ecco, presentazione di una mostra in una città di provincia, e la più parte della presentazione è stata affidata a un giovane manager che ha chiuso aperto e chiuso gli interventi, enunciando quali fossero state tutte le procedure di finanziamento, quali i mirabili indotti, perché poi andava. Vabbè, era lo sponsor, è chiaro, una parte doveva averla. Quindi mostra concepita in modo, non dico non scientifico, ma comunque con una dimensione scientifica esibitamente ricondotta allo show, quindi non, scelta di un argomento che avesse anche qualche ammiccamento, era un Toulouse-Lautrec, c'era anche qualche donnina di scinta, e alla fine la conclusione lapidaria: sono contento che il nome della mia società è volato su molte bocche in questa. Se ci ha messo i soldi, qualcosa in cambio dovrà avere anche lui. Certo. Non voglio sembrare cinico. No, ma io sono. Se no, altrimenti la mostra non c'era. Lo so, ci organizzano anche molte mostre pretestuose, concepite come un pacchetto treno, crapula, mostra facile, soddisfazione complessiva del soggetto. Forse i soldi potrebbero essere investiti magari creando occasioni che realmente possano avere una maggiore. Questo è chiaro, l'ideale sarebbe trovare un'alchimia tale per cui, certo, il mecenate abbia anche una sua sensibilità, sì. Ma spesso non è così. Io dico che posto che questa base materiale esiste ed è indispensabile ed è benemerita, un pubblico che numeroso assisteva a questa conferenza di Vernissage avrebbe forse preferito che parlasse in primo luogo il curatore e enunciasse. Beh, questo adesso lei c'ha il dente avvelenato per una sua cosa locale, però in generale si capisce. Pablo, su questo intervento. No, ben vengano i mecenati, voglio dire. Certo, sono questi anzi sono che mancano. Sono rozzi a parlare della loro fabbrichetta, ma è normale. No, ma va bene anche quello. Se il mecenate poi mecenatizza cose che vale la pena essere mecenatizzate, sì. Va benissimo. Ma ce ne sono, in Italia ce ne stanno parecchie. Vanda. Un po' meno che altrove. Vanda. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. No, sento la signora che diceva che non riesce a andare in una galleria, eccetera, ma ci sono le società belle arti quasi in tutte le città e queste fanno sicuramente mostre a ripetizione. Ma infatti da noi passa dall'orgasmo all'altro questa signora, è un problema. Questa signora che aveva parlato prima, sì, che non riusciva A trattenersi dall'estasi, sì. Ecco, sì, appunto. A lei mi sembra proprio che non accada questo, vero? Lo sento un po' giù di tono. C'è una cosa anche, che è vero che le quotazioni adesso vanno in alto per questo, per quello, ma gli artisti che hanno fatto accademie d'arte apposta, questi non si può dire che chiunque è artista, perché l'avvocato... Ma nemmeno chi ha fatto l'accademia è artista, è tutt'altro, anzi. Dico, l'avvocato non può fare l'artista, io non posso che ho fatto l'accademia a fare l'avvocato. Voglio dire, quindi lei ha fatto l'accademia, quindi è un artista lei? Sì, io ho fatto l'accademia delle arti, ho 70 anni ormai. Ma è un artista? L'accademia, mi faccio le mie cose in casa, perché non ho neanche più la possibilità di andare allo studio, perché c'è sempre questo. Insomma, quando uno ha una famiglia non è che posso fare. Vabbè, l'artista adesso è una scelta di vita, l'artista non può avere famiglia, deve vivere una vita maledetta, mi dispiace, è andata male. Claudia? Sì, pronto? Sì. Sì, mi scusi, sento un po' male. Allora, io parto con una premessa, io ho fatto il liceo artistico, al di là di questo non dipingo e non faccio più disegni. Comunque, e cosa fa allora? Faccio un altro mestiere molto bello. Tipo? Soprattutto la mamma adesso. Ah, niente, fa la casalinga, ha smesso. No, lavoro. Lavoro in un ristorante. Si vergogna a dirlo, che c'è di male? No, assolutamente. Può essere artista, fare la cuoca. È un'arte, anche quella, no? Io salgo in sala. Non sia reticente, serve in sala, c'è di male, figuriamo. Allora, niente, volevo solo dire questo. Cioè, c'è una grande distinzione, secondo me, da fare tra quello che è l'artista, tra quello che è il mercato dell'arte. Lo abbiamo detto dall'inizio. Questo, ecco, sì. E io posso dire che ho conosciuto degli artisti che fanno di professione i pittori. E c'è da dire anche questo. Bisogna vedere per che motivo si fa un quadro, che può essere anche un oggetto d'arredamento, nulla da dire. Io lo definisco opera d'arte comunque quando una persona ha la padronanza della tecnica pittorica, punto primo, perché deve esserci questo, e punto secondo, quando quell'opera ha un significato. Bisogna porsi davanti a un'opera d'arte con un grande punto interrogativo: il perché? Perché? Ecco, a me piace moltissimo Picasso, che tra l'altro si definisce Ma non faccio citazioni, qua non ci interessa sapere quanto ha studiato liceo artistico, saprà qualcosa di Picasso sicuramente. Sì, ma è proprio questo, l'intento con cui si fa un'opera d'arte. Io dico opera d'arte intesa proprio come manifestazione di una domanda. Ecco, poi fare un quadro è facile, ti metti davanti a un albero, dipingi. Beh, appena sei... detto che se non ha la tecnica non è facile, non si contraddica. Sì. Pablo, sentiamo un attimo. Resta un quadro. Pablo, ciao. Questa signora... No, oggi la tecnica non conta più nulla. Oggi quello che conta appunto è il percorso, è il laboratorio, è il processo, è l'idea che sottosta all'opera. Ma il problema non è questo, perché poi ognuno può avere un'idea e avere un, come dire, un, dare un senso a quello che fa. Quello di cui stiamo parlando è la legittimità di una, come dire, diciamo di una, di un sistema che definisce la qualità e il valore delle opere a partire dal prezzo che queste opere spuntano. Questa è una legittimità che io non riconosco, ma che in questo momento invece è imperante. Giancarlo. Pronto. Eccomi. Buongiorno. Senta, io ritengo che una trasmissione come questa, soprattutto in una, con una radio come Radio 24, dovrebbe interpellare anche dei professionisti, degli addetti ai lavori. Ho studio Pablo Ciao, sa chi sia. Pablo è l'unico professionista, anche se opera nella trasponda. C'è la trasponda che si dice, no, spieghi bene. Noi ci conosciamo bene con Pablo, anche se lui non, forse non mi riconosce in questo momento. Vabbè, tutto il lavoro teorico di Pablo tenta di valutare, rivalutare un sistema dell'arte in cui lui si muove leggermente obsoleto. L'arte si muove... Non ha assolutamente detto niente con questo concetto, si esprime in termini concreti. Cioè, se uno non riconosce la validità di quello che ho detto, cioè appunto della supremazia della casa d'arte, è di per sé obsoleto. No, guardi, insomma, il valore di un'opera d'arte in termini mercantili è dato dalla domanda e dall'offerta, e questo non ci piove. Ma non è affatto vero. Ma domanda, quale domanda? Questo, guardi, le parlo da professionista dell'arte, lei non lo è, lei è un giornalista, ottimo, grande giornalista. No, adesso però, l'interlocutore. In questo momento ero Pablo. Ma forse non lo sono neanche da io, piccolo perché... giornalista dico che in realtà la domanda la dignità dell'offerta. Pablo sa bene che i valori di Cartellan, di Jeff Koons sono dati non da speculazioni ma da domande e dall'offerta. Grandi collezionisti che spendono per ragioni le ragioni a volte vanno anche sceverate, comunque vanno... Ma le ragioni, scusi, è uno stato symbol, l'arte è stato sempre uno stato symbol e continua ad esserlo. Ora se ci sono dei collezionisti tipo Pinot o Dacis Ioanno o altri che spendono 8, 10, 20 milioni per acquisire un'opera d'arte, sono affari loro e mi pare che sia giusto. Ma noi partivamo per esempio dall'esempio che un'opera del Tiepolo non costa altrettanto, quindi o questi artisti di cui lei sta parlando sono, non so, 100, 200 volte superiori al Tiepolo, o questi prezzi che vengono spuntati nei loro confronti sono forse quello che, non sono il solo a dirlo, ormai è invalsa la cosa, una bolla speculativa, che quindi domanda e offerta, certo, ciò vale anche per le crisi economiche, voglio dire. Ma bisogna dire chi fa la domanda, non solo, ma voglio dire, a volte queste cose sono appunto, si chiamano bolle speculative perché sono domande e offerte che non corrispondono poi a una realtà economica effettiva. Grazie Pablo Ciaren, ricordo Contro Storia dell'Arte, edizione Gallucci, a domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.